Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferie o in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata. Provi a rana! Lascia, vado io! Tira, tira! È una palla altissima, impregnata d'acqua! De Marco, direi anche ascoltando le richieste delle squadre, decide di tornare negli spogliatoi. Tutti convocati. Direi che all'Olimpico di Roma si è giocato 10 minuti di troppo, si poteva serenamente non cominciarla nemmeno Roma-Parma, gara che evidentemente anche nei primi 10 minuti è stata falsata dalle condizioni del terreno di gioco. Poi fortunatamente De Marco ha deciso di mandare tutti sotto gli spogliatoi. Cercheremo di capire se e quando si recupererà, perché il calendario è fittissimo. 800 24 00 24, Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, si chiedono molti amici che scrivono anche su Twitter perché a Perugia o Istanbul sì, cioè si può giocare e a Roma no. Vabbè, perché sì, perché no, io rimango dell'idea che giocare oggi era impossibile, quindi hai ragione tu, si è giocato 10 minuti di troppo. Abbiamo sentito un capolavoro della cinematografia mondiale come Fantozzi e abbiamo visto qualcosa di altrettanto comico come quei 10 minuti inutili in cui si è giocata nella palude. Sì, ci segnala giustamente qualcuno che si sono giocate altre partite anche in questa stagione su campi al limite del praticabile, viene in mente Sassuolo-Torino, viene in mente Genoa-Inter, tutto vero, secondo me quello di oggi era un po' più impraticabile. Detto questo, a noi piacerebbe un calcio in cui se la palla non rimbalza a calcio non si gioca. Questo ovviamente vale anche per quello che fu a Perugia, vale per quello che è stato a dicembre a Istanbul, dove si è giocata una partita che non si doveva giocare. E quindi ben venga che De Marco ha fermato tutto, però mi interessa sapere anche che cosa ne pensate. 800 24 00 24, se è stato giusto sospendere o no questo Parma-Roma, se qualcuno si avvantaggia da questa sospensione, e poi anche che cosa pensate del crollo del Napoli. Lo avete sentito, 3-0 a Bergamo, Napoli che ha fatto 2 punti nelle ultime 3 partite, do un'occhiata alla classifica, resta terzo a quota 44, ma a questo punto esce davvero definitivamente dalla corsa scudetto. Il nostro question time, Carlo. Lo stop di Roma-Parma, chi avvantaggia? È un favore alla Roma che non fa 3 partite in una settimana o alla Juventus che evita quel +3 che avrebbe potuto mettere per qualche ora pressione? Io dico non avvantaggia nessuno, semplicemente oggi non si poteva giocare e non capisco le polemiche, perché tirare in ballo altre partite in cui si è fatto l'errore di permettere di giocare su campi non praticabili non vuol dire che in questo caso non si dovesse fare quello che De Marco ha fatto. Non avvantaggia nessuno. Ha detto Morgan De Santis: non mi gioco lo scudetto su un campo allagato. De Santis, quello del sistema a favore della Juventus, secondo te lo ha fatto apposta per far arrabbiare gli juventini che ricordano, a proposito di scudetti giocati su un campo allagato, Perugia? Ma no, non credo abbia espresso semplicemente il suo parere, che bisogna cioè di far arrabbiare gli juventini. Sì, sono arrabbiato ogni volta che apre bocca De Santis li fa arrabbiare. Benitez che va a Bergamo e tiene fuori Jorginho, Hamsik e Higuain, perché mercoledì c'è la Coppa Italia. Che voto merita? Merita 4 in questo momento il Napoli, non da oggi, mi sembra una squadra molto giù anche fisicamente. Sì, molto giù fisicamente. Poi Napoli che ha pagato in realtà 3 errori gravissimi, perché sul primo c'è una papera di Reina, poi c'è un incredibile autopassaggio di Hiller e poi una scivolata di Fernandez. Però secondo me il problema è nella testa, perché se tu dai quel segnale alla squadra poi ti puoi aspettare di tutto a Bergamo. E se prima di Natale il Napoli era al 72%, questo Napoli, Carlo, a che percentuale è? Era credito, se era al 72%, adesso può essere al 50%. Sto giocando davvero male il Napoli. Sì, tra il 50 e il 55. Il Milan di Seedorf, che ha fatto 7 punti in 3 partite, quanti ne vale veramente, riguardando ad esempio come Farnerud si è mangiato il gol del 2-0? non tantissimi. Il Milan è quello di Allegri con un po' di garra in più, un po' di adrenalina in più, dato dall'arrivo di Seedorf è anche un assetto tattico più interessante, ma non è una squadra cambiata, è sempre una squadra malaticcia. Sì, secondo me anche con un po' di fortuna in più, il che è un merito, ricordiamoci che cosa hanno detto grandi presidenti sugli allenatori fortunati e gli allenatori vincenti. Ti faccio sentire Montella ieri sera dopo la partita Cagliari-Fiorentina. Solo un lamentino, come mi è stato detto dal signor Mazzolini a fine partita. Ho visto un gioco ostruzionistico da parte dell'avversario, giustamente perché era in vantaggio, ed è già dalla fine del primo tempo dopo che si era portato in vantaggio. Questo naturalmente non vuole essere nulla contro il Cagliari, fa la prova partita, però mi aspettavo dalla conduzione che ci fosse un'agevolazione nel far correre il gioco con più velocità. E purtroppo il nostro calcio è questo. Dico questo perché lo dico pubblicamente, visto che gli arbitri molto spesso, non tutti fortunatamente, parecchi di loro non hanno l'umiltà di ascoltare. Carissimo Carlo, è più lamentino Montella o Mazzarri? Mazzarri imbattibile da questo punto di vista, però anche Montella ci dà dentro. Sì, nelle ultime settimane col faccino quello del bravo allenatore, però non si tira indietro. Rocchi, era l'arbitro giusto per Juventus-Inter di questa sera? Ma sai, non tutti sono gli arbitri giusti, nessuno lo è. Rocchi ha un passato che conosciamo, all'Inter non piace, poi te lo dico dopo la partita se è l'arbitro giusto o no. Secondo me è l'arbitro perfetto perché è il miglior arbitro italiano. Certo che nella settimana di quelle polemiche di Nicchi con Mazzarri, che non si è presentato all'incontro, con i dossier dell'Inter, i calci di rigore, tutto quello che sappiamo, probabilmente avrebbero anche potuto designare qualcuno di diverso. Mi interessa anche sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24. C'è Colantuono, che è il protagonista di questo pomeriggio ai microfoni di Sky Sport. Ricordiamo Atalanta che ha battuto 3-0, doppietta di Dennis e gol di Maxi Morales. Il Napoli, Atalanta che si allontana in maniera sensibile dalla zona calda della classifica, sale a quota 27. Sentiamo se riusciamo a prendere una battuta di Colantuono. No, Luca, il discorso è questo, che Cicarini ieri è stato poco bene, non sapevamo se addirittura convocarlo, un grosso forte mal di testa, non si è allenato, per cui ero già partito con l'idea che avrebbe giocato Baselli, e poi per il resto abbiamo confermato un po' quello che avevamo fatto, insomma, anche nella partita di Torino, che era, per quello che riguarda i giocatori, che era stata una partita buona secondo me. Abbiamo fatto rientrare Dennis e Maxi, che la scorsa settimana avevano tirato un po' il fiato, e direi che abbiamo fatto veramente una buona partita, una di quelle che solitamente noi in casa riusciamo sempre a fare, esprimendo un buon calcio. Abbiamo fatto una bella partita anche con la Roma, se ricordate, ce l'hanno rimontata alla fine. Con la Juve anche il primo tempo l'abbiamo giocato alla pari, insomma direi che in casa riusciamo veramente a esprimerci molto molto bene. Se da qui alla fine riusciamo a migliorare anche il rendimento fuori casa, possiamo sicuramente toglierci qualche soddisfazione in più. Atalanta che ha vinto assolutamente meritatamente, 800 24 00 24. Però lo ripeto, amici napoletani, secondo me sono più i demeriti del Napoli, in questo caso i demeriti di Benitez, che i meriti dell'Atalanta, ed è un segnale pessimo quello che oggi è il 2 febbraio Benitez ha dato alla squadra, perché non si può mollare così a metà stagione il campionato perché c'è la gara d'andata di semifinale di Coppa Italia. 800 24 00 24. Carlo, stai lì, c'è Adriano da Firenze. Adriano, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Prego. Io volevo dire, ho visto oggi a Roma sospendere una partita quando due settimane fa è stata fatta andare a termine una partita simile a Genova. Sì, Genoa-Inter, ne abbiamo parlato, gara che si è giocata su un campo difficile. Secondo me Adriano non era uguale. Oggi a Roma, e tra l'altro ripeto, la gara è stata sospesa dopo 10 minuti, quindi avrebbe dovuto proseguire per ancora almeno un'ora e mezza. Secondo me oggi era più impraticabile, però prego Adriano. No, io ho visto un campo nel secondo tempo di Genova-Inter che era uguale a quello che era a Roma oggi. Io ero allo stadio e l'ho visto con i miei occhi. Sai qual è secondo me il problema, Adriano? Carlo, non so se sei d'accordo. Il problema è che oggi De Marco ha deciso di sospendere, altre volte non è stato fatto, e spesso quando non viene fatto non è perché gli arbitri non capiscono che la palla non rimbalza, ma per i soliti problemi di calendario, di difficoltà logistiche, di gestione di stagioni che sono troppo piene. Il problema quello secondo me è, cioè, l'uniformità delle scelte. Però bisogna distinguere tra campo bagnato, campo pesante e campo impraticabile, perché il campo bagnato è una delle variabili che fa parte del gioco del calcio. se non si può giocare come era caso oggi a Roma, mi sembra indiscutibile questo, non si deve giocare, ripeto, mi sembra un gioco abbastanza stucchevole, e lo dico anche agli ascoltatori così potranno rispondere, mi sembra un gioco stucchevole quello di fare dei paragoni e dei paralleli con partite del passato, semplicemente oggi è stata presa la decisione corretta. Se in passato sono state prese decisioni sbagliate, sono lì da vedere, fanno parte della storia. No, quella di oggi è cronaca e dico che la decisione è stata giusta, punto. Sì, sì, sottoscrivo. A proposito di errori, tutti da rivedere i 3 errori del Napoli che hanno spianato la strada alla vittoria dell'Atalanta. 8-0-0, 24-0-0, 24, traffico. Ciao a tutti e faccio un saluto a tutti i tifosi interisti. Un abbraccio, Hernandez. Tutti convocati. Allora, vi ripeto il numero 800 24 00 24, telefoni aperti, i temi sono qui squadernati sul tavolo. Carlo, prepara il pronostico per Juventus-Inter di questa sera. Intanto Alessandro da Forlì. Alessandro, salve, buon pomeriggio. Volevo dire che oggi l'arbitro ha fatto benissimo a sospendere la partita. C'era anche il discorso però che, per dire, se non veniva addirittura iniziata la partita, recuperavano domani. È lì una sfumatura. Sì, io non, non la credo possibile, perché in realtà mercoledì la Roma ha la Coppa Italia contro il Napoli. Da regolamento credo che dovessero recuperare il giorno dopo. Mm. Poi l'altro discorso è questo, bisogna far vedere però il filmato a quel somarone di Collina, così, no? Sì, che fece giocare a Perugia. Direi, no? Sì, ma io credo che oggi non si potesse giocare, punto. Poi dopo cercheremo di capire tra le pieghe del calendario quando si può recuperare e semmai se la Roma può in qualche modo essere avvantaggiata da questa sospensione. Io vi dico la mia, avrebbe messo un po' di pressione alla Juventus forse scendere in campo questa sera eventualmente con soltanto 3 punti di vantaggio potenziali sulla Roma. Avrebbe messo un po' di pepe in più a questo Juventus-Inter per il quale io trovo un pronostico abbastanza semplice da fare, mi sembra che i 23 punti di distanza in classifica siano una fotografia abbastanza esatta. Carlo, tu come la pensi? Ma secondo me non è così semplice. Cioè, una partita non è mai semplice Juventus-Inter, però la differenza c'è. Volendo guardare l'andamento, il trend di questo momento, il risultato è 4-0, no? Perché secondo me lì, la partita più difficile oggi ce l'aveva la Roma con un Parma in grandi condizioni, però sappiamo bene come è una partita carica di emotività, quindi non butterei via l'Inter così facilmente nella partita di stasera. No, però è vero che soprattutto quello che si è visto nelle ultime settimane, e soprattutto poi ne parleremo, il fatto che il mercato di gennaio, che si è chiuso venerdì, di fatto non incide per nulla in questo Juventus-Inter, perché non ci sarà Osvaldo, non ci sarà Hernanes, D'Ambrosio dovrebbe partire dalla panchina. Beh, tutto questo mi fa dire che quello che abbiamo visto fino a domenica scorsa, quindi parliamo ad esempio di Inter-Catania, non può essere ribaltato soltanto dall'emotività della partita. Grazie Carlo. A te, buonasera a tutti. Appuntamento con te a domani alle 14. Saluto Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi e ascoltatori. Ha fatto la cosa giusta De Marco, si discute molto anche su Twitter, chi ci segue, che scrive sulla sospensione di Roma-Parma. Beh sì, insomma, per chi ha visto quei pochi minuti la non partita che c'è stata, pallanuoto, un altro sport, ci è sembrata assolutamente opportuna, insomma, altrimenti facciamo il caso contrario, non l'avesse fatto saremmo qui a discutere sulla decisione sbagliata, quindi secondo me, ecco, io applaudo un'iniziativa giusta, ma per entrambe le squadre, ecco, lo si è detto sin dall'inizio, non era più calcio quello. Ha detto De Santis: non mi gioco lo scudetto su un campo allagato, secondo me pensiero assolutamente sacrosanto, così come forse è sacrosanto anche chi torna a quel famoso Perugia-Juventus in cui Collina decise di andare avanti su un campo che era oltre i limiti della praticabilità, così come è sacrosanto secondo me chiedere un po' di uniformità. Per qualche minuto io oggi ho avuto il terrore che De Marco andasse avanti, perché poi il calendario rende quasi impossibile andare a recuperare questa partita. Sì, con le recriminazioni sul passato ci si possono scrivere dei libri e sì. Io sono d'accordo che ci sarebbe maggior necessità di uniformità, però ecco, applaudiamo le iniziative positive. Io dico oggi il campo era impraticabile e doveva essere sospesa. Se guardo indietro, qualche episodio sul quale si può discutere c'è, riguarda anche la Juve sicuramente su quel campo di Perugia, però ecco, dico, senza voler sempre fare dei paragoni, e capisco che comunque i tifosi li fanno, secondo me oggi era una partita da interrompere. Secondo te la Roma ha perso un'occasione per mettere un po' di pressione alla Juventus, cioè avrebbe cambiato qualcosa nell'approccio della Juventus questa sera con l'Inter se la Roma fosse stata lì magari a 3 punti per qualche ora? Beh, sicuramente avrebbe messo un po' di pressione addosso alla Juventus, che insomma avrebbe giocato con una Roma che era ormai vicina a 2 punti, a 4 punti, cioè 2 punti in meno, quindi sicuramente avrebbe messo una certa pressione. Però magari ecco, adesso la Roma può guardare anche al risultato dello Juventus Stadium e aspettare un pochettino con impazienza questo recupero che dovrà fare con il Parma. Sì, hai notizie sulla data? No, ancora no. Difficile, ancora no. Dando un'occhiata al calendario, febbraio quasi impossibile, poi il 5 marzo c'è l'amichevole della nazionale contro la Spagna, il 12 no, perché c'è l'Europa League della Lazio, a Roma potrebbe essere il 19 marzo. Il 19 è quello che potrebbe essere questa la prima data utile. Ti faccio sentire, direttore, le prime battute di Rafa Benitez, che secondo me è l'imputato di questa domenica. Sentiamo Benitez ai microfoni di Sky Sport. Fernandez, però questa squadra ha l'impressione che in questo momento non si possa permettere di tenere in panchina Amsic e soprattutto Higuain, quindi le chiedo anche il motivo di queste scelte. No, chiaramente credo che questa partita dobbiamo giocarla con giocatori con la freschezza e la qualità per vincerla. Credo che in campo si è visto il primo tempo che abbiamo avuto 3-4 ripartenze che potevano fare la differenza. Al secondo tempo abbiamo iniziato con un errore, dopo abbiamo avuto un'occasione, un altro tiro di Higuain e un altro errore, 2-0, e dopo un altro errore, 3-0. Credo che è difficilissimo trovare una partita così con questi errori che abbiamo regalato alla fine, 3 reti, no? Sì, direttore De Paola, ha ragione Benitez a dire è difficile trovare una partita con così tanti errori individuali. Le ricordiamo la papera di Reina, il retropassaggio sbagliato di Hindler e poi la scivolata di Fernandez. Oppure io penso che quando tu dai quel segnale lì alla squadra tenendo fuori 3 titolari perché hai la Coppa Italia 3 giorni dopo, in fondo stai mandando un messaggio abbastanza chiaro. La penso esattamente come te. Io credo che qui abbia sbagliato Benitez e stia sbagliando in questa fase. Poi, per carità, è un allenatore assolutamente rodato, bravo, vincente, che può creare anche una scuola, però devo dire che questa è una partita che ha completamente sbagliato, anche perché se l'obiettivo è, anzi gli obiettivi sono la Coppa Italia e l'Europa League, insomma basta anche essere chiari, ed essere chiari anche con la stessa squadra, con gli stessi giocatori, perché il Napoli abbia un po' di partite, non c'entra l'Atalanta, non c'entra avversari che ha incontrato di recente, che non è una squadra grintosa, non ha un approccio giusto alle partite. È vero, il Napoli può recriminare per 3 errori, beh, insomma comunque sono 3 errori clamorosi, e poi li possiamo analizzare per bene, soprattutto quello di Hiller, ma ha creato anche pochissimo, cioè quando ha messo in campo Higuain un pochettino si è visto qualcosa in più, ma insomma c'è stato un solo errore che io ricordi proprio con occasione nitida, quello di Mertens davanti alla porta sul passaggio di Pander. Ma la squadra in questo momento non va, non ha una mentalità giusta, non ha una mentalità vincente, si arrende troppo facilmente, non mette pressione all'avversario. Questo Napoli così non va da nessuna parte. Dopodiché a centrocampo, secondo me, più che in difesa c'è un tasto dolente. Hiller ha procurato più danni che benefici al Napoli. Non è il primo errore clamoroso di questo giocatore, e una caratteristica che mi sento di dire è quella di un giocatore pochettino spento, quasi addormentato in certe fasi della partita, e così non va bene. Sì, mi sembra che tra le righe ieri Benitez abbia detto anche abbastanza chiaramente che si attendeva di più dal mercato, e quindi penso anche dal proseguo della stagione, perché Benitez mi era sempre parso di capire che attendeva il mercato di gennaio come un'occasione per rilanciare le ambizioni del Napoli. Mi sembra che lui per primo abbia fatto delle scelte, l'abbia chiarito con la formazione messa in campo oggi. Ripeto, secondo me è un errore, perché il 2 febbraio è un segnale pericoloso quello di mollare così il campionato. Grazie a Paolo De Paola. Grazie a voi. Grazie al direttore del Corriere dello Sport. C'è ancora Benitez che sta parlando ai microfoni di Sky Sport. Come mare dopo infortunio, io credo che che lo farà bene. Abbiamo... No, Hamsik è un giocatore che dopo due mesi ha giocato 2-3 partite, e adesso abbiamo una partita mercoledì, un'altra sabato, un'altra mercoledì, un'altra domenica. Non è facile per nessuno giocare tante partite seguite, dobbiamo lavorare con loro, e chiaramente Marek dopo due mesi è uno che dobbiamo gestire, lo stesso che Gonzalo. Oggi credo che la differenza non è stato in questi giocatori, è stato negli errori che abbiamo fatto noi. Tanto oggi a Bergamo un petardo lanciato dalla curva dell'Atalanta ha ferito a una mano un operatore televisivo. È stato un pomeriggio abbastanza movimentato, con diverse bombe carta di varia potenza che sono state lanciate dalle curve di tutte e due le tifoserie. Lo sapete, oggi non si è giocato a Genova il derby tra Genoa e Samp, causa soprattutto, al di là delle versioni ufficiali, della protesta degli ultra che non volevano la partita alle 12:30. Questo è oggi il nostro calcio. 800 24 00 24, subito dopo torniamo a parlare di Napoli, della crisi del Napoli, del tracollo. Lo faremo con Pino Taglialatela, a cui chiederemo anche conto dell'errore incredibile di Reina sul gol dell'1-0 di Denis. Convocati. Poi alla fine della stagione si fa il bilancio. Ilaria. Luca Marchegiani. Allora, sì, è Reina che sta cercando di spiegare ai microfoni di Sky Sport la papera dell'1-0, quella che ha certamente facilitato il compito dell'Atalanta questo pomeriggio contro il Napoli. Vi descrivo il gol: Denis da una ventina di metri, una conclusione forte che ha rimbalzato proprio nei pressi del portiere del Napoli, pallone che Reina non ha trattenuto, gli è passato sotto la pancia e si è infilato in porta. In tanti hanno ricordato papere simili di Reina da portiere del Liverpool. Reina è certamente un ottimo portiere, è anche altrettanto certo che è un portiere che spesso sbaglia. 800 24 00 24, scrive un amico, lei ce l'ha con Seedorf, come fa a parlare di un allenatore fortunato. Io credo che certamente Seedorf sarà alla fine della sua carriera un ottimo allenatore. È altrettanto certo che, come ha ribaltato la partita di Cagliari negli ultimi due minuti, ieri sera ha rischiato di perdere, col Verona ha vinto su un episodio, probabilmente il bottino di 7 punti nelle sue prime 3 partite è un bottino superiore a quello che ha fatto il Milan di diverso rispetto al Milan di Allegri. Sentiamo ancora Reina. Sicuro la cosa sarà diversa se si lavoriamo in più, e i risultati arriveranno. Io non ho nessun dubbio sul mio compagno, e sicuro faremo bene alla fine. Scrive un amico al 349-238-6666, se l'Inter vince questa sera diventa la favorita per il terzo posto. Napoli e Fiorentina hanno Coppa Italia ed Europa League, e questo farà la differenza. Credo che l'Inter faccia il campionato per il quinto posto, non oltre. Giancarlo dalla provincia di Latina, buon pomeriggio. Sì, prego. Buon pomeriggio. Dica. Niente, volevo solo condividere ciò che avete detto, che Benitez ha completamente sbagliato la formazione. Sinceramente ci ha umiliato letteralmente noi tifosi del Napoli, perdere 3-0 a Bergamo, e anche meritatamente. Inler deve stare fuori squadra, ci sta danneggiando, è già da tempo, deve uscire. Tanto abbiamo Jorginho che copre il suo ruolo, e Zemail, non ci interessa Inler. E soprattutto Benitez deve chiedere scusa ai tifosi napoletani, senza durre a scuse. Ha sbagliato la formazione. A noi della Coppa Italia non ci interessa niente. quello che ha fatto è un gravissimo errore e deve chiedere scusa. Sì, ho l'impressione si sia rotto qualcosa nel Napoli, Giancarlo, anche a livello di rapporto con De Laurentiis, credo anche da parte della piazza. Se non sbaglio, settimana scorsa c'è stata la contestazione a San Paolo, De Laurentiis aveva promesso di spendere, ha speso in questo mese di gennaio, ma ha speso meno di quello che i napoletani si aspettavano, meno forse di quello che serviva per mettere insieme una squadra capace di stare lì, attaccata alla lotta scudetto fino alla fine della stagione, anche se è vero che il Napoli a questo mese di gennaio è arrivato con un distacco forse già eccessivo, con un distacco che difficilmente può far sognare un riaggancio. Però quello che si è visto oggi a Bergamo è certamente il segnale di una squadra in difficoltà. Chiede ancora un amico se Biabiani al posto di Robinho sarebbe stata una buona mossa di mercato. Credo che sarebbe stata una buona mossa di mercato, credo però anche che Seedorf abbia bisogno ancora di qualche settimana per provare a dare la sua impronta al Milan. Poi invece sulla questione della sospensione di Roma-Parma, su Twitter Cosimo, ci fosse stato Collina avrebbero giocato, a proposito del sistema, la Juventus l'ha fatta giocare, se c'è chi ricorda anche la partita di Istanbul che è costata contro il Galatasaray alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League, e poi ancora le parole di De Santis, le ricordiamo, non mi gioco lo scudetto su un campo allagato, che stanno facendo molto discutere e stanno dividendo, così come c'è qualche protesta a Catania da parte del Livorno per il gol del 3-3 del Catania in fuorigioco in una domenica, lo abbiamo detto, che è già stata segnata dalle parole di Montella dal punto di vista arbitrale. Poi questa sera arriva Juventus-Inter, che tradizionalmente regala sempre parecchio. A proposito della settimana che si è appena conclusa e che ha portato tanti colpi di mercato, tante storie, tanti intrecci, c'è una squadra che è uscita benissimo, che è la Lazio, che oggi ha vinto a Verona contro il Chievo 2-0. Vi faccio sentire che cosa diceva Edi Reja ieri in conferenza stampa del mercato della Lazio. Reja: vedremo, è inutile che mi chiedete sempre delle solite cose, perché continuiamo a parlare di giocatori che sono andati via, e chiaramente resta un po' di rammarico, questo sicuramente, però noi ci si aspettava altri giocatori, abbiamo chiesto anche ultimamente, non so, per dire Giovinco, abbiamo chiesto la Juventus, se ne ha 6 di punte che ci andavano bene tutte quante, però nessuno accetta di venire e di conseguenza siamo rimasti un po' male. L'ultimo che sembrava, diciamo, fatto con il Parma, l'ultimo giocatore, non ha accettato neanche lui. Evidentemente stanno bene dove sono, preferiscono magari non giocare, e adesso questi sono i scenari. Ve lo faccio sentire perché c'è Reja sorridente dopo la vittoria di Verona 2-0, gol di Candreva e Keita. Queste sono le storie di mercato, dove molti colpi di quest'ultima settimana vedranno e vivranno questa giornata dalla panchina o dalla tribuna. È il caso di Osvaldo e Hernanes. La Roma aveva iniziato la partita contro il Parma senza nessun nuovo acquisto, lo stesso ha fatto il Napoli. Ebbene, la Lazio, che certamente è la squadra uscita meno rinforzata o più indebolita da quest'ultima settimana di mercato, alla fine invece ha vinto 2-0 e in questo momento, classifica alla mano, può anche aspirare a un aggancio alla zona Europa, perché la Lazio quota 31, in fondo dista soltanto 4 punti dal Verona. 800 24 00 24, andiamo ancora su Sky a Bergamo, c'è German Dennis. Dipenderà da me e dalla squadra. L'importante è quello, poi penseremo a che cosa possiamo pensare. Ci chiedevamo come fosse possibile che a 32 anni Dennis ancora non avesse avuto la grande occasione, cioè il grande club, anche perché tu, è vero, hai giocato nel Napoli, però era un Napoli non da vertice come quello di adesso. No, non lo so, forse ho maturato da più grande, no, non è che ho avuto tanta la possibilità come adesso qua a Bergamo. Qua mi sento benissimo, mi sento importante e forse avevo bisogno di questo. Ilaria. Dennis, Massimo, no, da sei... Napoli. Massimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve, buonasera a tutti. Dica. Grazie dell'occasione. Tifoso del Napoli. Tifoso del Napoli, non accanito, un appassionato più che tifoso, essendo napoletano, diciamo, puro sangue, e quindi ovviamente io volevo porre una domanda a considerazione, osservazione, che poi mi faceva piacere se anche lei come giornalista potesse dare una risposta, ovvero. Sì. Ma la domanda, ma il Napoli ha effettivamente la volontà, al di là se rimpiazzi o meno, rinforzare o meno la squadra, ma c'è da parte della proprietà e quindi di converso dei giocatori, dell'allenatore, la volontà di poter vincere, voler vincere? Questa è la domanda che io penso che debba essere posta, più di qualsiasi altra cosa. Perché io posso mettere anche il grande Maradona, ma se poi non c'è dietro la volontà, che appunto, come lei diceva prima, si è rotto qualcosa, probabile che poi alla fine anche Maradona potrebbe non sortire nessun risultato. Sì, io credo che la volontà ci sia, credo anche che poi ci si scontri con difficoltà, logiche di mercato, lo ha spiegato in parte Benitez ieri, ad esempio il Napoli fuori dalla Champions, difficile magari andare a convincere alcuni dei giocatori che vengono contattati, credo che quello del Napoli sia un progetto che non vada giudicato quest'anno, quello di Benitez altrettanto, sarà una crescita che andrà valutata nell'arco di 2 o 3 stagioni, certo che dal punto di vista della mentalità è certamente una brutta figura, un brutto segnale quello che si è visto oggi a Bergamo, a partire, lo ripeto, dalle scelte di formazione di Benitez, perché poi ci sono gli errori dei singoli, c'è l'errore di Reina, di Inler, di Fernandez, ma in testa tutto c'è l'errore di Benitez, secondo me, nel mettere giù una squadra pensando alla semifinale di Coppa Italia. Saluto Antonio Di Gennaro, reduce da Milan-Torino. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Oggi ho letto sui giornali frenatina Seedorf. È stata una frenatina, è un punto guadagnato. Come va letta questa partita? Come va inquadrata? Vedendo il primo tempo, vedendo anche insomma la capacità e anche la personalità del Torino di andare in vantaggio e di poter anche raddoppiare con una bellissima ripartenza, un po' che è un po' il segno delle squadre di Ventura, si può interpretare anche con un punto guadagnato. Il secondo tempo ho visto un Milan ovviamente più determinato, più voglioso, più aggressivo, non a caso anche il gol del pareggio di Ramin nasce proprio da una diversa interpretazione anche del press e dell'aggressività soprattutto che partiva dai difensori, fra questi Ramin che poi è arrivato al pareggio, penso anche meritato viste poi le occasioni che ha creato il Milan. Sicuramente è un Milan diverso dalle passate stagioni, ma questo non è che lo scopriamo ieri sera oppure in altre circostanze. La squadra si è indebolita come qualità, quindi adesso credo che Seedorf possa diciamo così, avere una squadra, proporre una squadra che ha meno qualità ma più cuore, più determinazione. Però insomma, se vogliamo parlare di Milan che dettava legge a livello europeo, a livello italiano, credo che questa squadra piano piano dovrà sicuramente rafforzarsi. Il mercato di gennaio è sempre un mercato difficile per tutti, e lo è stato anche per il Milan, perché se andiamo a vedere ha preso dei giocatori ovviamente non grandi investimenti come era, insomma, ci ha sempre abituato a vedere e a proporre. Quindi io credo che da giugno con la nuova scelta qualcosa andrà cambiato, qualcosa andrà fatto, anche andrà data probabilmente una nuova dimensione e una nuova direzione a questo Milan. Antonio, ti faccio sentire Reia che sta parlando ai microfoni di Sky Sport. Il risultato poteva essere anche ancora più rotondo, però l'importante era vincere e dopo il saluto di Hernanes penso che sia un bel segnale, soprattutto per i giovani, perché abbiamo un gruppo di giovani che quest'anno avremo modo di vederli più di qualche partita, che così potremo fare delle valutazioni anche per il futuro. Studio. Ecco, a proposito di segnali, di messaggi, abbiamo sentito Reia che ieri era stato abbastanza critico sul mercato della Lazio. Stiamo parlando di Benitez che cambia mezza squadra a Bergamo pensando alla Coppa Italia. Da questo punto di vista i messaggi di Seedorf al Milan sono tutti improntati alla fiducia, all'autostima, a ritrovare quell'autostima che forse questa squadra aveva perso. Ma dicevo appunto che la scelta è stata fatta dal presidente Berlusconi, quindi quando viene avvalorata e appunto decisa dal presidente è normale che anche in prospettiva futura creda che questa squadra andrà rafforzata negli uomini, nella qualità e che ha sempre contraddistinto questa grande società. E quindi in questo per adesso si devono accontentare, secondo me, di una, come ho detto prima, di una squadra determinata, vogliosa, che magari può cercare di fare il massimo in Champions League, ma sappiamo poi che insomma per il campionato la corsa è molto lunga. Poi ieri giustamente Galliani non pensa neanche alla Europa League, se possono arrivare o meno, perché non è nel DNA di questa società. Però credo che potrebbe essere, a parte appunto il turno ora con l'Atletico Madrid, diciamo il risultato più attendibile, vista la classifica, visto, devo dire, che dal punto di vista della qualità del gioco ancora questa squadra ha qualche limite, insomma, ma non è che l'ho scoperto io ieri sera, è un po' da diversi anni, da quando sono andati via i grandi campioni, perché il calcio è fatto di preparazione delle partite, di schemi, tutto quello che vogliamo. Poi in campo le grandi squadre sono sempre state contraddistinte dai grandi campioni, che trascinano poi giocatori di un certo livello, oppure magari meno forti, però che si possono esaltare proprio perché ci sono dei fuori classe che giocano vicino. Sì, ha detto Galliani, non parlatemi di Europa League perché mi deprimo, tra poco saremo l'unica squadra italiana a sentire ancora la partita, quindi, la musichetta della Champions League, perché è nel nostro DNA. Dell'Europa League non voglio parlare. Antonio, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, c'è il traffico. 800 24 00 24. Possiamo dire vinciamo lo scudetto, lottiamo per l'importante è lottare, l'importante è crederci. Convocati. Telefono aperto 800 24 00 24. Intanto un amico via SMS scrive: la Lazio paga la durezza di Lotito con i giocatori quando sono a fine contratto. Più si andrà avanti, meno giocatori firmeranno per la Lazio. Alessandro da Brescia, ieri Rei ha detto: abbiamo chiesto a 10 giocatori di venire da noi, ma in questo momento nessuno ha voluto venire alla Lazio. Oggi Tare in realtà ha detto che si riferiva a un paio di trattative e che Quagliarella si è detto disponibile a trasferirsi alla Lazio, ma soltanto a fine stagione. Siamo con Antonio Di Gennaro, reduce da Milan-Torino. Per chiudere il discorso sul Milan invece, mi è interessato molto la prova di Rami al di là del gol. Mi sembra tra l'altro che anche i tifosi del Milan abbiano identificato in lui un nuovo leader per la difesa. Ma all'inizio si è visto un po' spaesato, anche un po', diciamo così, non attento nelle situazioni dove Immobile è stato veramente molto bravo. Bonera l'ha salvato una volta, poi in effetti dopo il centravanti, che è stato il migliore in campo, insomma, ha dettato un po' lecce. Il secondo tempo ho visto un giocatore diverso, d'altronde era 4-5 mesi da che lui era stato fermo, quindi veniva da un campionato diverso, anche se insomma la Spagna sappiamo che insomma è molto vicina al nostro calcio, e soprattutto la diversità che insomma questi giocatori quando arrivano a gennaio devono integrarsi, devono capire un po' in maniera, diciamo, abbastanza in fretta. Nel secondo tempo ho visto un giocatore diverso, molto più aggressivo, e come ho detto prima all'inizio il gol nasce da una ottima azione sua, ma soprattutto da un'intercettazione a metà campo, questo pressing alto, questa aggressività che Seedorf ha richiesto di più, soprattutto nel secondo tempo, ha rischiato ovviamente perché spesso si sono trovati anche uno contro uno, solo che nel secondo tempo il Milan insomma ha cambiato marcia, soprattutto lui dopo il gol, insomma, come dicevi tu giustamente, mi sembra che abbia preso un po' anche le redini del leader che insomma serve a questa squadra dopo insomma le cessioni di Nesta e Thiago Silva, perché tutti si pensavano quando è andato via Ibrahimovic, ma non si sono insomma il reparto della difesa ha perso due grandissimi campioni, due fuori classe assolute, quindi in questo il Milan aveva bisogno, e il gol di ieri, la prestazione del secondo tempo da molta fiducia e molta speranza all'allenatore e anche a tutto l'ambiente. Sì, non so quanto potrà reggere il Milan il 4-2 più gli altri 4 davanti. Mi interessa anche capire che cosa ne pensi di quanto potranno dare i nuovi, quelli che ancora non si sono visti, a partire da Essien, poi c'è Tarat, Onda ieri, Malino, Milan che ha fatto la collezione di trequartisti, c'è anche Saponara che ieri si è visto. Credo non sarà semplicissimo il lavoro di Seedorf per dare un po' di equilibrio a questa squadra. Ma nel nostro campionato il 4-2-3-1 magari può essere, diciamo, quello del Milan ieri sera, anche se con qualche rischio, soprattutto nella fase, diciamo così, quando magari attacchi a pieno organico, anche ieri i terzini spingevano molto, quindi nelle ripartenze con giocatori come ieri Circe Immobile o con altre squadre che proprio si basano su questa filosofia possono andare in difficoltà in Champions League, non credo che possa proporre questo modulo, anche perché sappiamo che a metà campo oppure anche sugli esterni, quando vai a giocare e giocherà contro l'Atletico Madrid, è una squadra che è molto molto compatta, con giocatori di qualità sugli esterni, quindi secondo me, a meno che insomma gli Honda di Aereo, Robinho possano imparare la fase difensiva, diciamo la fase non possesso, ma ho veramente seri dubbi. Penso che il 4-3-3 o 4-3-1-2, che un po' è stato il marchio di fabbrica di questa squadra in Champions League, soprattutto con l'Atletico Madrid, possa essere quello giusto. Grazie ad Antonio Di Gennaro, ciao Antonio, grazie. Grazie a voi, buonasera, arrivederci. Allora, 800-24-0024, Giuseppe da Cuneo. Giuseppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Intanto è arrivato Pierluigi Pardo, lo vedo dietro il vetro della regia. Prego, Giuseppe. Volevo chiedere, specialmente nell'ottica della Champions League per il Milan, io sono tifoso milanista, quale sarebbe l'elemento che secondo voi potrebbe rivelarsi la chiave per poter andare avanti, visto i rendimenti della squadra attuale? Cioè, per superare l'Atletico Madrid, Giuseppe? Esatto. Io credo non ci siano chiavi, se si giocasse domani mattina, si gioca tra un paio di settimane, quindi chi lo sa, però l'Atletico Madrid oggi mi sembra nettamente superiore. Io l'ho detto all'inizio, non, poi usiamo il paradosso di dire che Seedorf è stato un allenatore sfortunato, diciamo che Seedorf ha fatto 7 punti nelle prime 3 partite, io ritengo che il valore delle prestazioni del Milan in queste 3 giornate non sia poi stato così differente da la media del Milan di Allegri, lasciamo stare lo scivolone contro il Sassuolo, ci sono tante cose che sono andate poi per il verso giusto, ci sono stati tanti episodi anche favorevoli, a partire dal ribaltamento di Cagliari, il suicidio del Verona San Siro con un calcio di rigore letteralmente regalato negli ultimi minuti della partita, se vogliamo anche ieri Farnerud che ha sbagliato il gol del 2-0 ed era più semplice segnarlo che sbagliarlo. Secondo me questo Milan farà molta fatica con l'Atletico Madrid e parte nettamente svantaggiato. Poi, ripeto, si gioca tra un paio di settimane, la Champions League è una cosa completamente diversa rispetto al campionato, di sicuro credo non vedremo questo Milan anche dal punto di vista tattico, ma lo diceva anche Antonio Di Gennaro. Paolo da Roma, Paolo, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Io condivido, diciamo, tutto quello che sta facendo Sabatini. Sono contrario in una cosa. Sì. Il prestito di Leandro Paredes al Chievo. Leandro Paredes è un ragazzo argentino 94, del 94 del Boca. Sì. Ed è una grandissima speranza. Molto promettente. È chiamato il mago perché è un grande saltatore e indovina sempre l'angolino. E poi è un centrocampista alla Pirlo e, diciamo, Verratti, solo che di Verratti è alto 20 centimetri di più. È stato prestato al Chievo. E io già ho capito che qualcosa non andava, perché l'anno scorso il Chievo prese un ragazzo argentino di grande talento che si chiama Gabriel Auche e Corini non gli ha fatto fare neanche una partita. Sì, anche se secondo me la Roma, Paolo, ha fatto benissimo a dar via Paredes in prestito, perché poi è un grande talento, è un grande prospetto, è un giocatore che promette molto. C'è il rischio, se resta a Roma, di passare 4 mesi in panchina a vedere giocare Pjanic, Strootman, De Rossi, Nainggolan, quindi un reparto che funziona e che allo stesso modo è composto da grandissimi giocatori. C'è il rischio di star lì, fare panchina, perdere tempo, non crescere. Secondo me la soluzione di cederlo è stata la soluzione giusta, così come merita assolutamente un voto altissimo il mercato della Roma, soprattutto per questo lavoro in fase di scelta di giovani che possono esplodere, possono venire utili già magari a partire dalla prossima stagione. Grazie Paolo. Dice un amico, la frase di Gagliani sull'Europa League è la dimostrazione del provincialismo, non hanno capito che fare risultati lì è l'unica strada per non finire ai margini della Champions. Ha ragione Lorenzo, sarebbe importante soprattutto quest'anno che in Europa League c'è il Milan, c'è il Napoli, c'è la Fiorentina, ci sono squadre comunque che hanno possibilità di andare avanti, c'è la Juventus, sarebbe importante, sì c'è la Juventus non il Milan, che le italiane capissero l'importanza di provare ad arrivare fino in fondo. E poi Luigi che scrive: i tifosi del Napoli devono capire che non esiste solo il campionato, vincere una coppa da sempre prestigio, è vero, ma ripeto, siamo al 2 febbraio, come si fa a mollare così la stagione come ha fatto evidentemente oggi Benitez? Poi ancora un tifoso del Napoli dice: perché i tifosi del Napoli non capiscono che Benitez è uno che costruisce le squadre, quindi necessita di un buon anno di fiducia. Va bene la fiducia, però ripeto, cambiare mezza squadra, perché mercoledì c'è la Coppa Italia e vai a giocare da terzo in classifica a Bergamo contro l'Atalanta, secondo me resta un errore. Siamo in fondo alla prima ora, 800 24 00 24, sta per arrivare Pierluigi Pardo, lo vedo dietro al vetro. Allora cominciate a prenotarvi per telefonare, mi interessa anche sapere qual è il vostro pronostico su Juventus-Inter, se conta qualcosa, se vale qualcosa, se quei 23 punti di vantaggio che è la Juventus sono la vera fotografia della distanza che c'è oggi tra Conte e Mazzarri. 800 24 00 24. Ragazzi, sto arrivando, fra poco. 800 24 00 24, continuiamo, tutti convocati weekend, fra poco. Tutti convocati. In conclusione, Berlusconi ha ottenuto i campionati del mondo in esclusiva e noi la comproprietà di Maradona in cambio di Falchetti e Mengoni. Quindi Falchetti e Mengoni dobbiamo dare. Ma che me ne frega quando ci abbiamo Maradona? Fra tre anni. Ce abbiamo tre. Fra tre anni? Allora noi Falchetti e Mengoni ce li diamo fra tre anni. No, quelli ce li ho già dati, sono già della Juve. Caro Canà, in certe circostanze bisogna saper rischiare, guardare al futuro. Carissimo Pierluigi Pardo, in certe occasioni bisogna rischiare. Bisogna rischiare, sì. Allora sì. Io ti metto in difficoltà. 800 24 00 24, intanto per chi vuole telefonare, cominciamo a vivere la lunga vigilia di Juventus-Inter. Mi devi dire chi sono i Falchetti e Mengoni di quest'ultima settimana di mercato? Gente che è partita subito per vedere Maradona fra tre anni non ce n'è in questo momento. Non c'è Maradona soprattutto. Non c'è Maradona, è così. Devo dire che questa prima giornata post-mercato, insomma, in qualche modo racconta tutto questo, no? Perché poi alla fine vediamo che per un motivo o per l'altro, in alcuni casi burocratico, in alcuni casi invece tecnico, mi pare che insomma per ora c'è poco del nuovo mercato. Anzi, la squadra forse più cambiata al Sassuolo ha perso in casa, quindi... Non benissimo fin qui. No, non benissimo. Secondo me non benissimo neanche la Lega in questo intreccio con le banche. Io non ho capito di chi è la colpa, ma il fatto che questa sera Hernanes non possa giocare perché diciamo per le 22, per la regola delle 22. Esatto, per la regola delle 22. Quando però il mercato posso dire una cosa, è aperto fino alle 23, sì, tu immaginati, sì, se l'NBA, il massimo del professionismo, toglie uno dei suoi uomini faro per una questione. Ancora è partito Hernanes. Ma Hernanes l'ho seguita in diretta quell'ultima giornata. Hernanes è partito, insomma, non firmava prima. Lo so, però insomma sono ingenuità, per carità, la regola non si comprende, però se la regola c'è va rispettata, insomma. Io invece, carissimo Pier, so chi è il cavalier Borlotti, presidente della Longobarda. No, è il presidente dell'Inter, uomo della settimana, quello che non era Superman però è arrivato in 5 giorni. Poi Borlottir. Senti come se n'è andato. First of all, I would like to thank you for President Claudio Lutito, you know, to make the deal happens. But I think adding Hernanes and Ambrosio is good for Inter. Ambrosio. Good for Inter. Difatti stasera non gioca nessuno. Però da quando è arrivato lui si sono messi, insomma, no? L'hai visto Ausilio che correva dentro, cioè, fuori. Oggi però scrive Repubblica che Branca i giorni contati perché se l'è un po' presa Tohir, che non è riuscito a vendere. Tra l'altro, notizia di oggi, saltato il passaggio di Ranocchia al Galatasaray, perché ci va Guillermo Burdisso. Mi dai un voto a Tohir di questa settimana? Beh, Tohir... L'unica cosa che gli si può rimproverare è di essere forse arrivato troppo tardi. Poi alcune cose tecnicamente, cioè per esempio l'affare d'Ambrosio non mi convince molto, perché secondo me poi alla fine l'Inter ha pagato un giocatore che stava andando in scadenza molto. e quindi non è che io sia convintissimo che tutto quello che è stato fatto bene. È stato fatto con la pressione, con diciamo tutta l'attenzione dei tifosi in certi casi contro, e quindi si è, alla fine si è lavorato male, però alla fine si è lavorato, che comunque è meglio di niente. Quindi no, il voto a Toir è buono, poteva secondo me svegliarsi prima e probabilmente intervenire 15 giorni prima e le cose sarebbero cambiate, avrebbe avuto un mercato un po' più facile. C'è anche Oronzo Canà in questa meravigliosa settimana di mercato, secondo me è, l'abbiamo sentito prima tutto contento dopo la vittoria, è l'allenatore della Lazio e di Reia. Ci sono state una decina di nomi, una decina di personaggi che noi volevamo prendere e hanno rifiutato tutti. Queste sono le ultime notizie, no? Mi sembra non c'è stato uno. La Juventus aveva un parco di giocatori che a noi poteva interessare, il presidente ha fatto delle offerte e nessuno accetta di venire alla Lazio, di conseguenza cosa devo fare? Devo prendere atto e basta. E cosa deve fare? Eh beh, mi sembra che sia molto onesta questa... Ma tu hai capito perché non vogliono andare alla Lazio? Beh, non, devo dire che nel caso per esempio di Quagliarella non ha rifiutato solo la Lazio, ha rifiutato anche il Genoa, ha rifiutato il Cardiff, ha rifiutato altre squadre, quindi insomma la Lazio almeno da questo punto di vista si può sentire in buona compagnia. Non lo so, certo, la sensazione, oggi c'era un pezzo sul Messaggero nel quale si parlava del rischio che la partenza di Hernanes poi possa incidere anche sugli altri big della squadra, che c'è un effetto psicologico di un certo tipo. Certamente la Lazio in questo momento, per come la si può percepire da altre parti d'Italia, mentre ha una realtà tecnica con Reia molto positiva in questo momento, insomma, dal punto di vista societario, di contestazione dei tifosi, di ambiente, in questo momento magari non è così attraente, e questo è un problema. E poi è chiaro che tutto dipende evidentemente dalle scelte di Lotito, nel bene e nel male. Insomma, se c'è questa contestazione, sappiamo che questa contestazione è perché alcune decisioni di Lotito non sono piaciute. Però di contro invece anche la reazione di oggi va sottolineata, perché poi la squadra in campo da qualche settimana con Rei ha trovato pienamente la credo sua abbia fatto 10 punti in 4 partite, soltanto il Chievo all'inizio dopo il cambio con Corini era riuscito a cambiare passo in maniera così significativa. I due personaggioni, dai, Falchetti e Mengoni di questa settimana, beh, uno è sicuramente quel colpo lì da quasi 20 milioni di euro, qualcuno ha scritto Toir l'ha fatto per poter lavorare tranquillo i prossimi 3-4 mesi, così nessuno lo scoccia più, lo chiama Jakarta di notte per fare i comunicati. Beh, lui, Hernanes, molto contenti, aspetto una ci auguro il meglio per tutti noi, una nuova avventura, quindi sono contento, è una sfida e sono pronto per affrontarla. Comunque non mai convinto, io non ho capito perché Hernanes non gioca stasera. No, ma no, io è una cosa che non riesco a capire. È per il classico cavillo burocratico. Non è che si può discutere sul fatto che sia un cavillo. Però, ripeto, le regole ci sono, è abbastanza paradossale che i dirigenti non le conoscano. Insomma, non bene. Poi che un giocatore appena comprato non possa giocare per una questione così banale, onestamente fa ridere. Sì, fa ridere. L'altro personaggio è Johnny Depp, Osvaldo. Me lo voglio godere questo momento, perché arrivo nella squadra più grande d'Italia, è una delle più grandi d'Europa, è l'anno che c'è il mondiale, quindi penso che non capitano tante cose nella vita, cose così. Voto alla sua bombetta e voto al mercato della Juve e voto al fatto che stasera non gioca e voto al fatto che Vucinic è la quinta, sesta punta. No, se esteticamente parlando insomma stava meglio un po' cambierei gli occhiali, te lo vedi Boniperti se gli fosse capitato davanti uno vestito come altri tempi, dici. Johnny Depp, dai, un simile Johnny Depp. No, io penso che Osvaldo abbia fatto una scelta obbligata, nel senso che comunque qualsiasi occasione per uscire da quel guado nel quale si era trovato in Inghilterra era fondamentale. Insomma, c'è l'obiettivo del mondiale, che è un obiettivo molto importante. Certo, per uno che ha giocato nella Fiorentina, segnando fra l'altro un gol nello storico 3-2 del 2008 della Fiorentina, che vinse 20 anni dopo a Torino con la Juve, e poi ha giocato nella Roma fino a pochi mesi fa, grande amico di Totti, è il calcio moderno questo, no? Si può passare da una rivale all'altra nel giro veramente di pochi mesi senza colpo ferire. Però io capisco la soddisfazione di Osvaldo e credo che Conte insomma ci punti molto. Ho la sensazione che sia un acquisto in prospettiva importante per Conte, ho la sensazione che sia veramente un giocatore che gli piace molto, e questo alla fine ha portato al piccolo difetto del mercato della Juve, se ce n'è uno, che sicuramente lì davanti ci sarà un po' di concorrenza e qualche mugugno che alla lunga potrebbe creare problemi. Massimo da Milano, Massimo. Eccomi qua, buonasera a tutti. Buonasera. Per Luigi Pardo, che ciao. Intanto vedo al nostro ristorante preferito, quello giapponese. E che cosa mangia? Cosa mangia? Cosa mangia di giapponese, allora? Io che mangio sushi è poco credibile, però insomma, vabbè, diciamo che a volte è successo anche questo, sì. No, ma a me hanno detto che al ristorante giapponese ti danno anche la bistecca oramai, sì, per quelli che... No, c'è il menù alternativo. Quello lì no, perché è il top di Milano. È il top del top. Non sbagliare. Il proprietario è interista e socio di un milanista. Esatto. Mm. Ecco. Prego Massimo. No, dunque, volevo fare un commento sulla partita di stasera, che per noi tifosi cristi non c'è storia, ma per colpa, per una tipologia di intervento dell'allenatore che non può giocare, non si può giocare con Kuzmanovic, non si può giocare con un divario, per esempio un divario tecnico così alto, cioè quasi mai nella storia tra Juve e Inter-Juve ci sia come stasera una differenza tecnica dei giocatori in campo, cioè non c'è storia purtroppo, non possiamo neanche pensare di riuscire con un colpo di coda o qualcosa, perché cioè anche l'assenza di Guarin è inspiegabile, perché ormai rimane e non gioca, mentre Vucinic è convocato. Come avete detto prima, Hernanes lo prendiamo, sì, è fuori per questioni burocratiche, un buon giocatore e non gioca, cioè gioca Kuzmanovic, cioè, sì, alla fine l'Inter è uscita da questo mercato come se avesse ceduto Guarini a Ranocchia, nel senso che non li ha ceduti, continua a pagarli, però uno è distratto, insomma, dalla prossima settimana è chiaro che questo è un intreccio, quello di stasera è un intreccio particolare, perché insomma è la partita che gli interisti e gli juventini sentono forse di più in assoluto, ancora più del derby, soprattutto dopo quello che è successo la settimana scorsa, ed è un paradosso addosso arrivare a questa partita senza Guarin, è evidente, insomma, ed è una cosa che si fa fatica a capire. In più c'è il problema per Hernanes, quindi la differenza secondo me è enorme, soprattutto a centrocampo, perché a centrocampo veramente lì dove se giocheranno Kuzmanovic, Taider, Alvarez, Kovacic, insomma, di là ci sono meccanismi molto più collaudati. Poi sugli esterni si può anche discutere, D'Ambrosio può portare un po' di dinamismo, Nagatomo comunque è un giocatore che il suo lo può fare in porta, vista l'assenza di Buffon, sì, però insomma, la Juve è nettamente superiore, no, forse Andanovic potrebbe giocare in questa Juventus, forse se guardiamo gli 11, Storari è ragazzo molto partita. Simpatico, forse però ecco, l'unico degli 11 che in questo momento della side by side parte sotto, però insomma sai, il calcio è strano, soprattutto partite come Juve-Inter sono strane, e soprattutto l'Inter che abbiamo visto ultimamente, una squadra che vince pochissimo, ma che in realtà io non ho mai visto sotto sul piano del gioco in maniera così clamorosa contro nessuno, cioè anche le partite che ha perso, alla fine le ha perse per episodi, quella con la Lazio è stata una partita complessivamente, sì, anche quella col Genoa è stata una partita equilibrata, per cui attenzione da questo punto di vista. Detto questo, io penso che la Juve sia più forte, gioca in casa, lo Juventus Stadium è un fattore e secondo me vincerà, ma in generale secondo me il problema dell'Inter oggi più che la grande partita è la partita con la piccola, è la partita con la squadra in casa, tipo Inter Catania o Inter Chievo. Inter Chievo ci sono stati anche gli episodi, sì, arbitrali, dove serve far gioco e dove c'è la questione ambientale, tutto quello, però anche poi con Hernanes, Guarin, insomma tra qualche settimana che cose cambieranno, no? 800 24 00 24, il vostro pronostico su Juventus Inter, traffico. Pierluigi, ti licenzio. Tutti convocati. Io rivedo le immagini di Roma-Parma, più mi chiedo come si sia potuto anche solo pensare di cominciare, di giocare quei 10 minuti di una partita di pallanuoto, non di calcio. Che poi sono minuti tolti alla partita, perché insomma... Sì, perché si ripartirà dal decimo, certo. Quando si ripartirà probabilmente a marzo, forse ad aprile. Guarda, abbiamo fatto pomeriggio, sì, al telefono, stiamo cercando di dare una mano alla Lega, e insomma se non cambiano... qualcosa, tipo qualche posticipo del lunedì, c'è un Parma-Fiorentina per esempio di lunedì, perché la Fiorentina il giovedì prima gioca in Europa League, poi diventa veramente molto complicata, si arriva a metà marzo, ma anche lì non si arriva, sì, perché c'è qualche difficoltà con la Lazio sui impegni di Europa League che occupano, anzi, l'Olimpico. Diciamo questa, se non cambiano qualcosa si va ad aprile, questa è la sostanza. No, secondo me si può fare, tra il 12 e il 19, da qualche parte c'è un mercoledì dove spostando qualcosa magari riesci ad incastrare questo Roma-Parma senza far arrabbiare Montella, che ha detto che Mazzoleni gli ha detto che è un lamentino, quindi se l'è un po' presa. Sai con chi parliamo di questo Juventus-Inter di questa sera? Aldo Serena, ciao! Ciao a tutti voi! Ciao al dito 11, come stai? Ciao, tutto bene! Dove ti trovi esattamente? Sono dentro lo Juventus Stadium. Che atmosfera c'è? Fai il cronista. Ma ancora non c'è ancora un'atmosfera quella giusta, siamo ancora distanti dall'inizio gara e quindi ci sono tutti gli addetti ai lavori che si stanno preparando, ma non c'è ancora quella tensione che ci sarà fra poco. Io mi chiedo perché quando chiamiamo Pierluigi Pardo in macchina che sta andando a fare il posticipo alle 18:20 al Casello in autostrada, invece Aldo Serena professionista è già dentro, è dentro lo Juventus Stadium. Una è di Roma, l'altra di Montebelluna, lo dico con affetto. Sì, ci sarà una ragione. Ma c'è il gusto del c'è il brivido. Il gusto dell'autogrill, no? Ma no, in realtà insomma, arrivo anch'io un paio d'ore prima. Però accetto la provocazione. Senti, poi parliamo di attualità. Juve Inter, chi tu l'hai giocata da tutte e due le parti? Dov'è che si sente di più? Qual è la squadra che riesce a essere meno impermeabile alla rivalità? No, entrambe la sentono in maniera forte e vigorosa. Io l'ho giocata da una parte e dall'altra, ma è una partita dell'anno, sempre lo stato anche, e lo era 30 anni fa, come lo è adesso, anche se in classifica sono completamente in due situazioni diverse. L'Inter è alla ricerca di se stessa, di trovare un equilibrio di squadra, di gli acquisti nuovi non ci saranno probabilmente questa sera e quindi sarà una partita fatta da Mazzarri con i vecchi. Ma 30 anni fa, quando non c'era stata Calciopoli, non c'era stato, ovviamente con polemiche e punti di vista diametralmente opposti, quando non c'era stato Rolando è più storia di oggi, era comunque già una partita speciale. Perché era una partita speciale? Perché sono due squadre rappresentative, due squadre che hanno vinto tanto. C'era stato già però un problema negli anni 60 quando l'Inter mandò a giocare in Primavera e in Primavera c'era Mazzola, quindi già c'erano state delle situazioni particolari e che avevano alzato i toni e noi negli anni 80 Juve Milan in confronto è una passeggiata dal punto di vista della rivalità mediamente, poi cioè, no, c'è Montari, c'è tanta rivalità, no? Forse c'è un po' più di acredine fra Inter e Juventus che fra Juventus e Milan. Sì, il fatto che l'Inter ci arrivi con 23 punti toglie qualcosa, cioè diciamo la verità, non ci fosse stato tutto quel casino Guarin, Vucinic, Marotta che dice con quelli lì io non tratto più, non sono affidabili, non sono seri, quelli altri che gli dicono giù le mani, messaggino questo, presunto dal 10-48, sì, che poi non ha visto nessuno, è un po' come il contratto di Moggi, quello già firmato da Moratti per andare all'Inter. Questo, se non ci fosse stato tutto questo, Aldo, di questo Juventus-Inter con 23 punti di distacco, sarebbe fregato a qualcuno al di là della stretta attualità, ovviamente, della classifica, della partita, di tutto quello insomma che si porta dietro? Beh, ai tifosi delle due squadre tantissimo, perché è un appuntamento fondamentale della stagione e quindi io credo che i tifosi dell'Inter quando affrontano quelli della Juventus e vanno a Torino, e lo stesso vale per quelli della Juve che vanno a San Siro, sia una partita di alto livello, lo è stata anche spesso di alto livello tecnico, forse l'Inter è una squadra che in questo momento non rispecchia le formazioni più blasonate della sua storia, ma è pur sempre una squadra che questa sera tenterà di trovare dei valori che a inizio campionato sembrava avere. Senti, tecnicamente, mettiamoci nei panni di chi sembra più debole, perché è chiaramente più stimolante come sfida. Quindi la Juventus. che deve provare a fare Mazzarri? Cioè, qual è la strada stretta che può portare l'Inter a un risultato positivo? Ma io penso che il centrocampo delle due squadre sia nettamente diverso. I tre che giocano lì nel mezzo siano di caratura completamente diverse, quindi con Alvarez cercherà questa sera di imbrigliare Pogba, Vidal, cercare di non farli partire, che sono sempre giocatori temibilissimi, giocatori che spostano l'equilibrio e quindi con densità nel mezzo cercherà di limitare quella parte. Sugli esterni se la giocheranno più o meno alla pari sotto il profilo della corsa i due esterni delle rispettive squadre, ma lì in mezzo secondo me l'Inter giocheranno comunque con un baricentro molto alto, non credo che tenterà di andarsela a giocare viso aperto a Torino Mazzarri. Ma c'è uno dell'Inter degli 11 che giocano questa sera che potrebbe fare il titolare nella Juventus? Diceva Pierre, forse Andanovic al posto anche di Strade, forse dai, al posto di chi Palacio, al posto di Tevez, vabbè, al posto capito, di però voglio dire, di Llorente. È in quella categoria lì Palacio ampiamente secondo me, insomma adesso Palacio è E secondo me in prospettiva anche Kovacic, perché è ha 19 anni, è un giocatore talentuoso, ha grande tecnica, è di prospettiva, non si è ancora imposto ad alti livelli perché è giovane, perché anche in un contesto non semplice, ma io penso che la Juventus, se potesse, un pensierino magari a Kovacic lo farebbe. Sì, ho l'impressione che succederebbe la stessa cosa che è successa con Guarin. Gli facciamo fare il pronostico? Aldo, certo. Pronostico. Il pronostico è tutto dalla parte della Juventus. Sì, però ma allora sbilanciamoci il risultato, perché è troppo facile. Il minuto del gol. La Juve è più forte, ma in queste partite io ne ho disputate parecchie. A volte non è così semplice, quando anche sembra che la squadra sia molto più debole, sa tirar fuori in partite come queste. Quindi non do niente per scontato, anche se la Juventus è sicuramente più forte dell'Inter e in un momento completamente diverso. Quanti gol hai fatto in Juve-Inter? Beh, dalla Juventus all'Inter ne ho fatto uno solo, mentre dall'Inter alla Juventus quattro. Ecco, quindi 1-4 sarebbe il risultato, secondo me, però chiaramente quindi, 4-1 per l'Inter. Stasera è un po' diversa. Hai sentito un po' di Boss venendo in macchina? Sì, come sempre accendo la radio, qualche volta metto anche i CD, quindi, ma non mi voglio caricare più di tanto perché è ancora un po' presto. Dici che un Borturan prima di Juve-Inter potrebbe essere, potrebbe... Qual è la colonna sonora giusta? Poi c'è l'antidote, grande rocker, eh? Lo so. Aldo, prima di firmare... Anche Cover Me, per dire, insomma, va bene. Ma è vero quella storia che prima di firmare un contratto si andrà a vedere Springsteen? Com'era quella storia lì? Era che Pellegrini mi voleva dare appunto nell'85 alla Juventus e in cambio di Tardelli, le trattative erano un po' lunghe e una sera mi ha convocato, ma ero impegnato a San Siro, pochi metri distanti da casa sua, ma fino alle, a mezzanotte e 20 mi sono perso anche due alla fine due di canzoni, insomma. Sì, ma comunque e poi si è andato la pena. Poi sei andato. E poi sei andato alla Juventus. Sì. Con la maglietta del Boss, capito che uomo? Sì, perché tra l'altro Pellegrini abitava davvero in zona San Siro, a 200-300 metri di distanza dallo stadio. Grazie. Sarà anche lamentato per i decibel, ciao, che c'era quella storia dei decibel. No, ma c'è ancora. Buona partita al dito. Buona partita. Grazie, ciao. Buona partita, Aldo Serena, 800-24-0024. Ci sono Giacomo da Milano, Furio da Livorno. Li prendiamo? Giacomo, buon pomeriggio. Giacomo. Sì, sono in linea. Eccoti, ciao, convocatissimo. Volevo chiedere, prego, per il Milan. Sì. Visto com'è la situazione in campionato, sì, Seedorf avrà il coraggio di inserire questi giovani emergenti? Speriamo di salvarci. Cioè Petagna, Cristante, a questi si riferisce? A questi, sì. Saponara, Cristante. Almeno se il Milan non avrà ambizioni, perché penso che non arriverà da nessuna parte, ma almeno di creare una squadra per il futuro oggi. E poi Berlusconi rimarrà sempre a capo del Milan o c'è in vista un futuro rallentamento e l'inserimento di qualche altro che è più disponibile in questa a investire sul Milan? Sempre non lo so, credo non lo sappia nessuno. Il concetto di eternità, ecco, ci è sconosciuto, però arriverà a 120 anni, quindi ne mancano ancora una trentina abbondante. Però sempre è difficile da dire. Credo a questo punto, a medio termine, invece, che rimarrà, perché mi sembra che anche comunque la crescita di Barbara Berlusconi in società segni la volontà di non distaccare il Milan dalla famiglia Berlusconi, dopo che per qualche anno si è pensato anche a fare il passo. Sì, e poi c'è anche da dire che, insomma, in questo momento nessuno, come dimostra la vicenda dell'Inter, nessuno in Italia è nella condizione di poter resistere a un innesto di capitali dall'estero, per cui qualsiasi discorso che riguarda qualsiasi squadra, oggi non c'è una società italiana che non è scalabile, diciamolo apertamente, insomma, nel senso che chiaramente se arriva un progetto di un certo tipo e se arrivano introiti e investimenti di un certo tipo, nessuno in Italia ha la forza per poter dire no, ho le spalle abbastanza larghe per andare avanti da solo, per cui credo che questo riguarda ovviamente il Milan come tutte le altre società, perché il Milan ha una gloria, una storia europea e mondiale, soprattutto negli ultimi 30 anni, straordinaria, e quindi chiaramente è un oggetto molto appetito e appetibile, però fino ad oggi mi pare che poi alla fine tante voci, però non è successo nulla. Sì, brand appetibile, se ne è parlato in Russia, negli Emirati, però resta Berlusconi il punto di riferimento. Furio da Livorno, mi guarda malissimo, sì, Valeria Bernardi, ma facciamo Furio. Furio. Sì, buonasera. Prego. No, volevo dire semplicemente 10 parole. Sì. Io sono anche 12. Non è che No. Io sono 2, ne mancano 8. Io ho conosciuto il pallone a 22 anni nel 59. Sì. In un derby Milan-Inter che regolarmente l'Inter perde. Quindi si ricorda anche quell'Inter ritirata mandata alla primavera a Torino, cui sì, faceva sì, riferimento sì, prima Aldo Serena. Sì, però non sono un tifoso, sono sportivo. Sì, ci preciso a sottolinearlo, per mia indole, perché poi simpatizzo per l'Inter proprio perché perse la prima partita della mia vita che vidi giocare a pallone, insomma. Certo. Volevo dire semplicemente, l'Inter ci mette del suo per non andare bene, è inutile dirlo, insomma, va riconosciuto. Però se facciamo un conteggio delle ultime 6-7 partite, l'Inter gli hanno belle tolto dalla scarsella ben 10 punti. Lei sta parlando di arbitri? Ingiustizie arbitrali, sì. Si chiamano ingiustizie, dove con errori, con un grandissimo punto interrogativo. Quindi immagino che lei sarà felicissimo di sapere che c'è Rocchi questa sera. Rocchi, proprio quello lì, Rocchi di Inter Napoli del 1 ottobre 2011. Rocchi, io lo dico, così mi faccio amici tifosi dell'Inter, che secondo me è il miglior arbitro italiano in questo momento, delle ultime meglio due stagioni, Rizzoli. Meglio anche di Rizzoli per rendimento, però certo nella settimana di quelle parole di Nicchi su Mazzarri, le polemiche con i dossier e tutto, forse si poteva scegliere un arbitro migliore, un arbitro diverso, Pier. Sì, beh, c'è il concetto di opportunità, che però è un concetto con il quale è molto difficile flirtare, perché alla luce di questo discorso da qualsiasi società, soprattutto quelle importanti che quindi fanno più notizia, hanno la possibilità di ricusare, come si diceva una volta. Sì, ma è capitato, è successo. Sono passati 2 anni prima per che Rocchi tornasse a fare l'Inter in campionato. Il confine fra un arbitro che ha avuto un episodio con una squadra, grande o piccola che sia, e quindi è condizionato, e il fatto di dire che quella è una vera e propria censura nei confronti di qualcuno e non ti piace, è un confine molto stretto. Certo, in generale quell'episodio lì potrebbe pesare, ma è una storia di 3 anni fa, di 2 anni e mezzo fa, per cui insomma cerchiamo di Rocchi un po' di altre serate le avrà vissute dal punto di vista arbitrale in questi 2 anni e mezzo. Voglio pensare che non sarà migliore. Sì, ripeto, numero 1 secondo me per rendimento negli ultimi 2 anni, tra l'altro grande recupero di Braschi, però 800240024. Ascolta tutti i convocati, perché deve andare a vedere i follow? Quanti follower hai? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Si crea l'atmosfera per il nuovo inno che stiamo per sentire. Io questa canzone è una di quelle canzoni, no, la canzone è bellissima, ma tutta la roba prima, devo dire la verità, quasi tutti gli inni calcistici quasi tutti sono ipnotici, cioè ti ritrovi a cantare di tutto, ecco. Sì. Questo è l'inno del Napoli? Beh, questa è la versione remix, preferisco quella originale, però insomma mi piace come la maglia camouflage, vabbè, con gli inserti gialli. La vita mia è tanta roba, la canzone originale. No, la canzone originale è tanta roba, no, dico questa versione. Questa è un po' così, un po'. Noi giriamo il coltello nella ferita di Giorgio De Luca. Da chi andiamo? Fra poco le ultimissime su Juve Inter, sì. Quindi fra poco andiamo allo Juventus Stadium. Fulvio da Milano, andiamo lì prima però, Fulvio. Vai. 800240024, Fulvio. Ciao, buonasera. Sì. Saluto prima Pardo. Sì, il signor Pardo. Sì. Grandissimo Pardo. Più presto non si può fare. Ragazzi, si fa la bene la mattina. Sì, noi però abbiamo, abbiamo una certa difficoltà a sentirti. Tiki-taka, dice, si può fare un po' prima, lo so, è un tema ma molto... Ma perché? 23, domani a che ora? Domani 23.40. 23.40. Mi sembra un buon orario, si torna o si sta. Dalla spaghettata. Si viene e si va. 23.40. Tra l'altro io non vi dico nulla, ma trattative in corso. Trattative in corso per una roba clamorosa, speriamo. Telefono che squilla, messaggini. Fulvio, vediamo se riusciamo a sentirti però, prego. Allora... Dimmi. Allora rubo solo tre io da voi. Sì. Tutta rete su Mazzarri con questa squadra nel Napoli. Sì, che cosa farebbe Mazzarri? Io traduco. Mazzarri è il tema. Con questa squadra. Guarda, se facciamo Napoli. Una cosa, lo chiediamo al più benitenziano di tutti, a un uomo, non so se ha rinnegato Rafa. Boris Sollazzo, buonasera, come va? Mai rinnegare Rafa, anche se la vostra crudeltà è davvero enorme, molto più di quella di Dennis, perché va bene perdere 3-0, ma farmi sentire quello proprio di Rinno remixato è davvero troppo. Finalmente, no, perché a Pier dove piace, sei? Eh? Dove sei Pier tu esatto? No, non è che mi piace, no, però, hai detto che ti piace, tanta roba. Roba non l'ho detto, così parlano i giovani, io ahimè ormai sono un anziano, però... No, a te piace anche la maglia camouflage, a me detto, la maglia camouflage piace. Detto, anche con gli a te piace gialli, la maglia camouflage? Anche con gli inserti gialli. Piace quella prima, però... Ti Boris. Piace il camouflage, Boris? No, il camouflage poi addirittura con l'errore di lavaggio che c'è in questo momento con quei schizzi di giallo è ancora peggio, è una sofferenza. Abbiamo dei colori così fieri, così belli. Senti, è davvero ma è all'asilo? Ma che stai facendo? Stai facendo... all'asilo? All'asilo? Siamo, sono nel mezzo di una presentazione ad Arezzo di eroici tifosi napoletani che al Napoli Club Arezzo o Sarracino... mi hanno ospitato per una splendida presentazione prova a fare un sondaggio volante meglio Benitez o Mazzarri fai un sondaggio allora, volante mi chiedono Benitez o Mazzarri rispondete Benitez un plebiscito per Benitez persino dopo Atalanta Napoli 3-0 Non accenna a diminuire la popolarità del premier, del signor Benitez. Senti, no, però dai, qualcosa si è rotto o no? Sollazzo, dai. Non credo proprio perché, voglio dire, abbiamo fatto errori in difesa che di solito una grande squadra fa in un campionato intero e noi l'abbiamo fatto tutti in una partita. L'allenatore può aver sbagliato, l'aver sottovalutato l'impegno, aver tenuto i 5 disfidati fuori. Detto questo, quello che abbiamo visto in campo... non è un problema di modulo, è un problema di testa e di piedi di giocatori che non sono in grado. Ecco, ma la difesa non andava migliorata? Il mercato è finito adesso, il mercato è gennaio. Io l'ho detto 150 volte con un livello di noia ormai. Ma non bisognava prendere un grande difensore? Sono abbastanza d'accordo, ma non mi pare che si siano mossi grandi difensori e quindi non si sono riusciti a prendere. E un illustre collega nostro, Darwin Pastoril, dice che Enrique vale Thiago Silva, io mi auguro che sia vero, vediamolo prima di criticarlo. Sì. Tra l'altro vi segnalo a proposito di Benitez che il suo grande amico Marco Materazzi, che sapete insomma non è esattamente il più affezionato a Benitez, avrebbe twittato stessa tattica, stessi modi, stessa paraculaggine, iniziano a conoscerti meglio tardi che mai, gelosia. La messa piano un po' come la moglie di Antonini quando è stato mandato via Allegri. No, va bene gli errori Boris, però secondo me il segnale che tu dai quando cambi mezza squadra in una trasferta difficile, lo sai, come quella di Bergamo con l'Atalanta, è un segnale che comunque secondo me toglie concentrazione, toglie stimoli, e poi può succedere anche quello che è successo questo pomeriggio, ma il Napoli, questo Napoli, dove deve arrivare, dove va? Ci pensate ancora al secondo posto? Vi fa paura la Fiorentina? Credo di no, credo che oggi Benitez, ed è questo il suo grande errore, abbia detto che punta sulle coppe e non sul campionato con un grosso rischio. Io credo che questo 3-0 possa essere salutare, cioè meglio di un 1-0 che potrebbe dare adito a scuse. Un 3-0 ti mette di fronte a tutte le tue responsabilità, compresa quello di un Benitez che di sicuro deve, visto che ha una rosa e con quella deve ragionare, deve cambiare qualcosa, probabilmente rinforzare il centrocampo. Cioè tutti si devono ripensare, oggi non si salva nessuno, persino Reina, che era un intoccabile, oggi ha fatto il suo errore. Quindi ci sono 20-25 giocatori e un allenatore che devono ripensarsi e devono ricominciare. Il Napoli c'è sempre riuscito, speriamo ce la faccia già da mercoledì. Certo, è il momento più difficile di questo campionato e dell'esperienza di Benitez a Napoli, su questo non possiamo assolutamente nasconderci. Viene fuori tutto ciò che dicevo io anche all'inizio, cioè una bellissima campagna acquisti, un grande allenatore, ma anche molto incompleta. D'altronde, quando c'è una rifondazione è sempre così. C'è pure da dire che i giocatori che mancano sono i giocatori dell'era Mazzarri, cioè i Britos, Lil, Reinaccio, sono giocatori probabilmente a fine ciclo. Sì, quindi è colpa di Mazzarri, mi pare di aver capito. No, no, però è ovvio che quando c'è una rifondazione, lo dimostra il Milan, ci sono anche delle grandi cadute. Non è colpa di Mazzarri, ma di sicuro con Benitez si è iniziato un altro ciclo, mezza squadra è stata cambiata e mi pare che parliamo comunque di una squadra che ha fatto 44 punti in 22 partite, vuol dire 2 punti a partita, ne ha fatti 12 in Champions ed è in semifinale di Coppa Italia. È dura essere ottimisti dopo Atalanta-Napoli 3-0, ma non dobbiamo dimenticare il resto. Sì, tu però mi devi dire perché stanno esultando, perché io non ho capito che partita stanno guardando. Perché chi ti fa Napoli vince comunque. Ah, hai capito. Dai, grazie Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao, ciao, ciao, ciao. Tutti convocati. Allora, andiamo a Torino. Max Nerozzi, inviato della Stampa. Ciao Max, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Dai, proviamo a capire le ultime dal fronte Juventus. Ma guarda, le ultime non ci dovrebbe essere nessuna novità, nel senso che Conte schiererà il 3-5-2 iperconaudato, l'ha provato anche stamattina sotto la pioggerina dello Juventus Stadium in rifinitura. In questo momento c'è la riunione tecnica dove metterà a posto le ultime cose, gli ultimi consigli ai giocatori, però insomma appunto non ci dovrebbe essere nessun colpo di scena. Quindi Storari in porta, Barzagli, Bonucci, Chiellini in difesa, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah a centrocampo, Tevez e Llorente in attacco. Sì, Osvaldo nemmeno convocato. Mi dici qual è l'esatta gerarchia degli attaccanti della Juventus? Cioè, se questa sera a un certo punto ci sarà bisogno di buttare dentro un'altra punta, chi è il primo cambio? Guarda, ti dico Vucinic, perché Conte in questo è imprevedibile, cioè Vucinic adesso è praticamente in fondo alla gerarchia, a bocce ferme, dopodiché non c'è Quagliarella, il match potrebbe essere pesante perché è diluviato a Torino quasi tutto il giorno, potrebbe anche scegliere Vucinic per dare un messaggio a lui, insomma, come dire, bisogna arrivare fino a maggio. E invece in generale, dopo i primi due, terzo Osvaldo? Io terzo Osvaldo, assolutamente. E poi? Giovinco, Vucinic, Quagliarella. Ma è vero che Osvaldo è un colpo che Conte ha chiesto e voluto, cioè è il profilo esatto del giocatore che lui voleva, lasciamo stare la questione Guarin che avrebbe portato un forza a centrocampo, ma quello è l'identikit del giocatore che Conte voleva per rendere più profonda e più forte la Juventus. Guarda, Osvaldo è un giocatore che a Conte piace, ma non da questi mesi qua, anche gli anni scorsi, per forza fisica, per talento, per le cose che fa in campo. Dopodiché ho la sensazione, anche se andrà approfondita in queste settimane, che si sia rotto qualcosa tra Vucinic, Quagliarella e Conte, soprattutto nelle ultime settimane. Adesso questo è il mio sospetto e quindi non è una notizia ancora, però insomma non so, secondo me ha inciso sulla decisione anche la partita di Coppa Italia, Roma-Juve, quando Quagliarella e Giovinco hanno giocato veramente molto molto male. Ma mi pare che insomma già prima i rapporti, no? Dopo quella famosa sostituzione a San Siro, insomma non sono mai decollati del tutto, o no? Sì sì, no, è vero, però è vero anche che in questi tempi insomma Conte era riuscito a tenere tutti sulla corda, nonostante quest'anno ci fosse una difficoltà ancora più grande di stare attaccati con la testa, perché insomma il minutaggio non era stato sparso come gli anni scorsi. La Juve ha sempre avuto una cooperativa del gol, quest'anno c'è una ditta di due nomi, cioè Llorente e Tevez, e non era mai successo in 2 anni e mezzo, e quindi è molto molto difficile. E poi è chiaro che insomma ci sono giocatori che probabilmente in quasi tutte le squadre di Serie A giocherebbero titolari, qui no, non è così insomma, ma penso che sia. Ma hai l'impressione che Vucinic e Quagliarella siano destinati a un finale di stagione, non dico da separati in casa alla Iaquinta, perché non sarà così, ma comunque con minutaggi sempre più confinati, limitati, anche considerando che la Juventus ha comunque l'Europa League che porta via parecchie energie, o verranno utili in qualche modo? Non so, io penso che Conte, che come molti allenatori ragiona sui doppi, mi sto facendo l'idea che la coppia di riserva sia Osvaldo Giovinco. Senti, l'ultima cosa è ambientale. Quanto fa paura, se fa paura l'Inter, ai tifosi della Juve in questo momento? La distanza in classifica è enorme. Il paradosso è che l'Inter stasera è senza Hernanes e Guarin, ma insomma c'è sempre comunque il rischio della buccia di banana, no? Un po' da derby. Ma guarda, fa paura, la mia sensazione è come faceva paura la Juve negli anni subito dopo Calciopoli, quando incontrava l'Inter. Se vi ricordate, la Juve arrivava sempre dietro in classifica, certo. Ma anche Mourinho perse qua, non so, mi ricordo quel 2-1 con il gran gol di Marchisio. Dopodiché la Juve dava tutto, dava il 120%, poi magari perdeva le due partite successive. E io temo che la Juve, come tra altre cose si è visto l'andata, se vi ricordate a San Siro, si immagina una partita molto dura, e Conte si immagina molto dura soprattutto a metà campo, perché si è confermato che Mazzarri farà giocare Mazzarri, Taider e Kuzmanovic. Penso che sì, sarà una bella, possiamo dire, una bella rumba in mezzo al campo. Sì, ci sarà da ballare. Grazie Massimiliano. Ciao. Grazie a voi, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Grazie Max Nerozzi, La Stampa, Stefano da Roma. Buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Sto chiamando perché oggi ho visto Chievo-Lazio, la Lazio ha vinto e questa è una notizia importante. L'altra notizia importante è che il nostro gestore, mi riferisco allo Tito, avrà esultato perché vorrà dimostrare a tutto al tifo laziale che si vince anche Hernanes, ma non dimostra al calcio italiano che la Lazio è tornata ad essere una lazietta soltanto da quando c'è lui. Sì. E quindi noi tutti quelli che tifiamo Lazio, che abbiamo Lazio nel cuore, siamo contenti per questa vittoria per la Lazio, ma sicuramente non ci facciamo infinocchiare dal gestore. Sì, intanto a lazietta di Lotito ha, se non sbaglio, un punto in più, due punti in più del, sì, però, Milan. Io l'ascoltatore lo capisco, c'è stata sempre grande ostilità nei confronti di Lotito, credo sia un discorso proprio di dimensione e di rapporto con i tifosi, per cui io credo che dal punto di vista dei risultati la gestione di Lotito ha portato anche a delle cose importanti in questi anni, ma credo che il tifoso in generale, se un po' ho capito questa dinamica, vuole una considerazione diversa, vuole un rapporto diverso, vuole idee chiare, insomma, anche in, ma secondo me lo titolo le idee chiare le ha, però, il progetto mi sembra abbastanza chiaro, però ha anche avuto dei risultati. Non vendi Hernanes l'ultimo giorno e poi ti riduci veramente l'ultima mezz'ora a chiedere a 10 giocatori se vengono, magari cerchi, visto che l'interesse dell'Inter era fatto anche prima. Sì, si poteva gestire meglio questa partenza. Dopodiché dire che la Lazio è lazietta soltanto da quando è arrivata Lotito, pensando a dove l'ha presa Lotito, parafrasando Berlusconi, cioè dai libri in tribunale, secondo me è anche ingeneroso nei confronti di Lotito. C'è dietro anche fallimento, altro rispetto. La Lazio ha vinto la Coppa Italia, fa l'Europa regolarmente, però io capisco insomma, frequentando un po' Roma, che ci sia questo senso proprio di impotenza dei tifosi nei confronti di questa gestione, quindi non mi sorprende, ecco, diciamo. Raffaele da Napoli. Buonasera, senta, grazie per aver parlato. Volevo sapere una cosa, come mai io tutti questi gol del campionato non pensa che sono più colpe di difese abbastanza disastrose, tipo Catania, tipo Livorno, che merito degli attaccanti, insomma? Sì, qualcuno chiedeva anche, Pier, il gol più bello di oggi. Io fatico a trovare un gol questo pomeriggio che mi abbia entusiasmato. Candreva, insomma. Sì, Candreva forse. Certamente difese rivedibili, compresa quella del Milan ieri sera. Meglio comunque, posso dire, meglio questo così. Dei primi tempi, dove c'era stato un gol soltanto, appunto quello di Candreva. Almeno nel secondo tempo ci siamo un po' divertiti. Beh, il gol di Toni, è vero che era solo davanti al portiere, ma il tocco sotto è un gol bello quello. No, in generale sì. Sicuramente ci sono difese che non sono più all'altezza del passato, probabilmente anche alcuni numeri di alcuni attaccanti nel nostro campionato devono essere viste alla luce di difese che non sono così eccezionali come qualche anno fa, però insomma rientra in una crisi complessiva del nostro calcio, insomma, non soltanto dal punto di vista difensivo. Sì, tra l'altro io mi auguro che prima o poi ripristino le vecchie regole sul fuorigioco, perché ci sono dei gol, scusa, sul fuorigioco, sugli autogol, perché ci sono degli autogol fatti e finiti, ad esempio quello di Keita oggi, il gol che verrà assegnato a Keita, credo che gli attaccanti di 10 anni fa avrebbero ragione di lamentarsi se poi nei numeri finiscono dietro nelle classifiche. Torniamo a Torino, Marco Barzaghi, ciao Marco. Buonasera a tutti. Come va? Barzagone, le ultime sull'Inter. Le ultime, ma le ultime posso dirvi che c'era un Hernanes sommerso dagli autografi, dai tifosi, e purtroppo forse questa è una nota dolente per i tifosi dell'Inter che speravano potesse giocare per dare un po' più di speranza al profeta, però appunto come è già noto a tutti mancava il bonifico. mancavano le garanzie bancarie. Confermato chi gioca? Gioca l'Inter che ci si aspettava, quindi non ci sono sorprese con Andanovic in porta, poi Campagnaro, Rolando, Juan Jesus in difesa, Jonathan Nagatomo sugli esterni, Kovacic al posto di Cambiasso proverà a fare playmaker basso davanti appunto alla difesa con Kuzmanovic e Taider, e Alvarez e Palacio in panchina inizialmente Milito, anche perché penso che Mazzarri farà una partita un po' in contropiede cercando di ripartire come tradizione sua. Sì, difficile che faccia una partita all'assalto. Grazie Marco, buona partita. Grazie a voi. Ciao. Grazie Marco Barzaghi, grazie a Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Lacorte, Valeria Bernardi in regia. Pier, pronostico velocissimo? Vince la Juve, ma secondo me 2-0, ma non così 3-1, facile. 3-1 per la Juve. Ciao, a domani. Ciao. Speriamo che domenica ci sia un arbitro daltonico e non si faccia influenzare dai colori delle maglie.